risotto. Sì, ma che ci faccio mangiare? Avevo fatto un risotto con la salsiccia a pezzi. Risotto con fegato alla griglia e patate bollite e insalata. Ecco. Certe cose adesso lascia nel piatto vedere fare tu, grazie, adesso sai già cosa puoi mangiare, cosa non puoi mangiare, quanto e quanto devi mangiare, capito? Ma se uno ne approfitta è normale che ti sale, capito? Perché sennò la questione è più va e peggio diventa, capito? Quello è invece puoi fare magari adesso per esempio domani pace, fare magari io ne abuserò senz'altro, però dopo magari mi regolo e dopo la prossima settimana mi regolo, per cui sono tranquillo. E così dovresti fare tu, grazie. Mangiare poco, mangiare roba leggera, se possibile è bianco e tira a campo, ma purtroppo è così. Ma magari chi c'è un altro immagino bagnato, l'arancio non ne posso mangiare anche per un bel di zucca, ma è la vecchia mi l'arancio bagnato. La roba fritta mia, è maledetta l'arancio, è maledetta la roba fritta. E per cui, a me piace molto, per cui, è già che me ne passano le fare molto a me. I polpi, quando cucino i polpi così verde, e hai salata di carta, andiamo a mettere un demonio, eh. Ehi, ma stavo detto l'altra volta, ma baciati subito, deve mangiare un vinuccio. Ci mi lambe alta, ti mangi un bel pezzo di vinuccio, solo che io per poco un'ora mangiamo il senza rete, però io me lo mangio così a pensare di me lo porto e te la passa subito. Ma forse attenti, non l'ho provato, io me l'hai detto l'altra volta, non l'ho provato, io vorrei, eppure lo provo, la provo qualche giorno, vedo un po' se come dici tu che la passa, boh, lo so, magari a te ti fa quell'effetto, magari a me non me lo farà, boh, può darsi sì pure, però voglio provare a vedere un po'. A me mi l'aveva detto Cotro, ci fa la campagna vicino a te, Tagliausi, Mario Tagliausi, e tu vado a me l'ha detto, che funziona. Intanto mi sarà finuccio, no? Dammi la magnata, dai a questa magnatica e poi te la conto. E io voglio finuccio, vai in Sardona, invece a me viene un bel, mi lascia lì, ma te la fa un Torino, Attila, ma te la fa io Maria, le vuoi finuccio? E te posa, no? Vedi, se si butta un sacchetto di pelle, di sapelle, il sacco bianco, che è una meraviglia. Ehi, tu domani date una profitta maglia di bruno finuccio. Proviamo, va. A ver, va a metà settimana, che da che tra me, che ne posso poco, a chi se ne manda il Torino, la giù va a tappetti, la giù può sorprendere. La prossima volta che andrò a piglio, grazie al vostro, provo a mangiarlo a vedere cosa fa. Ehi, tu prova, dopo no, quando è l'ora, te la misura e come lo vedi se te la passate in base a ciò che ti ha mangiato, lo sai, no, se te la baciata o no. Senz'altro. Va bene, grazie, dai. Che mi devo rinfrescare, a voi mi preparo e piano piano sempre. Ci sentiamo, grazie, dai, saluta di casa, auguroni eventualmente se non ci sentiamo domani. Auguroni, buona Pasqua a te, famiglia, e grazie la chiacchieratina, ok, grazie. Chiudo che mi preparo, vai, piano piano andiamo. Ehi, ricambiata al 100. Ok, vabbè, alla prossima, buona Pasqua anche a te in famiglia. Ciao, salutamelo. Buonasera. Ok, senz'altro, ciao, grazie. Buonasera anche a te, dai, sto chiudendo. Auguroni, virtualmente anche a te, dai. Auguri anche a voi, ciao Graziano. Ci sentiamo dopo magari. Chiudendo, sai. non sono a casa di un amico, non sono a casa mia, dai. Sto chiudendo tutto e riprendo la macchina. Già sono qua, fai chiamata, è acceso. Capano, controllo Radio Santiago da qua. Vai. 1, 2, 3, prova. Radio 5, è perfetta, bomboletta. Santiago, non faccio. Beh, andale, dai. Caspita, io stavo prendendo quel rosso. a queste golia che sono barboni, però costano 2 euro e passa, costano le golia. Già lo so, però quelle ruotelline che sono qui, tutte attorcigliate, non mi piace. Non li mangi, sono qui in realtà. Ciao!